Smart City, la città intelligente. Abbiamo la geotermia che ci riscalda, ci raffredda la casa d'estate, riscalda d'inverno. Le coperture dell'hotel sono state fatte per più del 60% con terra e prati verdi. Perché mette a sistema tutta una serie di attenzioni che la nostra azienda porta avanti già da molto tempo. Dall'energia fotovoltaica, il riscaldamento a pavimento, la coibentazione di pavimento, pareti e soffitto. A questo punto però la vinaccia continua a sussistere in una forma diversa, viene detta in gergo vinaccia esausta. E da questa biomassa noi ricaviamo energia termica per alimentare le nostre caldaie e produrre l'energia che ci serve per lo stabilimento. Ben ritrovati a Smart City, buonasera da Chiara Albicocco. Queste che avete ascoltato sono alcune delle voci degli imprenditori e delle imprese territoriali che hanno aderito al patto di comunità Terre di Siena Green. È un patto che la provincia, i comuni, le associazioni e i cittadini, ma anche i turisti della zona senese hanno sottoscritto per coinvolgere l'intera collettività in un processo di crescita per lo sviluppo sostenibile. Il progetto, che si chiama appunto Terre di Siena Green, si ripropone di soddisfare tre principali obiettivi: ridurre le emissioni di CO2, promuovere un turismo sostenibile che in quella zona è molto forte e incentivare la filiera corta. Qui con noi stasera c'è Fiorenza Guerranti, che è coordinatrice di questo progetto. Benvenuta. Buonasera a voi. Voi avete messo in atto un sacco di buone pratiche che avete anche già promosso, ma mi sembra doveroso iniziare spiegando che cos'è questo patto di comunità e chi può aderire e chi ha aderito. Sì, giustamente lei appunto l'ha definito come patto di comunità, e questa è la nostra intenzione, perché è la comunità residente in tutte le sue articolazioni, quindi il cittadino, ma anche le istituzioni, le scuole, gli imprenditori, ecco, che insieme condividono una filosofia di vita, tutto sommato, e credono, soprattutto in periodi difficili anche come questi, di crisi economica ma anche sociale direi, vedono nell'impegno per la cosiddetta green economy una speranza, una via di uscita per un futuro migliore, e quindi condividono sostanzialmente atteggiamenti, comportamenti, ognuno di loro in maniera diversa, per cui gli imprenditori decidono di investire nella loro impresa mettendo in moto processi produttivi rispettosi dell'ambiente, le istituzioni attuano buone pratiche nella gestione dei servizi sociali, dei servizi di trasporto, le strutture alberghiere, i nostri agriturismi si impegnano per una ospitalità improntata tutto a un turismo sostenibile. E qui anche il ruolo del turista diventa in un certo senso smart e green. Dovete fare in modo che anche il turista sia rispettoso di questa politica che voi state portando avanti. Indubbiamente sì. Noi amiamo chiamare il turista ospite prima di tutto, perché, e ritenerlo anche cittadino appunto. Cittadino vuol dire riconoscere al turista dei diritti indubbiamente, ma anche dei doveri, per cui chiediamo ai nostri ospiti che vivono con noi magari periodi anche molto brevi, ma molto spesso ritornano anche, chiediamo di difendere con noi il nostro ambiente naturale, di avere quindi comportamenti rispettosi dell'ambiente e di aiutarci a valorizzare, a rendere ancora più prezioso il nostro patrimonio culturale, artistico, monumentale, ma non solo. Ecco. E in questo contesto vi siete studiati un cosiddetto patto del cittadino. Sì, esatto. Quindi questo patto di comunità è allargato al turista e chiediamo di sottoscrivere simbolicamente attraverso il nostro sito un patto con i residenti. Dopo aver accettato queste regole, ma che sono essenzialmente regole di comportamento quotidiano, ma anche di visione di uno stile di vita, riconosciamo il titolo di cittadino delle Terre di Siena, rimaniamo in contatto con queste persone, ricevono da noi informazioni aggiornate tramite newsletter, classicamente insomma con strumenti del genere, e soprattutto li teniamo anche aggiornati sulle performance che questo territorio riesce a raggiungere sul fronte della sostenibilità. E a questo proposito io direi di raccontare agli ascoltatori alcune delle pratiche che avete messo in atto e che in effetti progetti rientrano perfettamente in questo contesto di rispetto dell'ambiente. Sì, ci sono molte buone pratiche che vengono da imprenditori privati che appunto investono nelle loro aziende, produttori che spaziano da produzioni biologiche a produzioni di vini rinomati nel mondo come il Brunello, il Nobile di Montepulciano e quant'altro, caseifici, alberghi, strutture termali. Ci sono poi buone pratiche fatte dalle amministrazioni comunali. San Gimignano, per esempio, ha investito recentemente nel trasformare, nel riconvertire l'illuminazione nel centro storico a illuminazione LED, quantificando anche il contributo di riduzione di tonnellate di anidride carbonica che questo produrrà. Lei ci ha mandato dei dati, mi sembra che insomma quasi 8 tonnellate di anidride carbonica risparmiata, insomma. Quindi le buone pratiche messe in atto sono anche immediatamente verificate, anche l'illuminazione natalizia di San Gimignano, che pure è un sogno, per nostra fortuna conosciuto in tutto il mondo, è fatto con un'illuminazione a risparmio energetico. Bene, un motivo in più per andare. Gaiole in Chianti, una zona anche questa molto, molto conosciuta, il Comune ha realizzato, crediamo, il primo asilo nido cosiddetto passivo. Passivo perché in realtà è completamente autosufficiente in termini di energia utilizzata. È stato costruito con architettura ecosostenibile, ha una copertura con un giardino pensile, c'è un recupero di acqua piovane, quindi un'attenzione completa perché l'asilo sia completamente autonomo. E le buone pratiche sono davvero tante, addirittura la provincia di Siena si impegna a non utilizzare più la carta, addirittura dal 1 gennaio 2014 tutto online, ma torneremo a parlare di queste buone pratiche perché sono davvero quello che rendono smart il nostro territorio e il nostro turismo in una zona indubbiamente senza bisogno di presentazioni. La ringrazio molto Guerranti e davvero un buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Smart City torna domani per raccontarvi di domotica e in particolare di domotica per la disabilità. Buona serata a tutti.